Once again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Whee! Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Oh, yeah. Whee! Bazinga. Bazinga. Again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. I Maya credevano che, prima del mondo attuale, ne siano esistiti altri, ciascuno dei quali sarebbe stato spazzato via da un diluvio così colossale che avrebbe fatto sembrare il diluvio universale una giornata uggiosa. Secondo loro era inoltre in atto una costante guerra tra bene e male. Il bene avrebbe portato pioggia, abbondanza, fertilità e sacchi di fertilizzante a prezzi imbattibili. Per contro, il male avrebbe portato carestia, siccità, gola secca e uragani chiamati come le mogli fedifraghe di certi meteorologi vendicativi. Nell'aldilà esistevano 13 cieli di beatitudine e 9 cerchi infernali descritti dal suo poeta, dal noto poeta Maya Dante Alighieri. Nel paradiso Maya non esistevano il dolore, la fatica, un posto al sole, e sull'aereo non esistevano mai messi a fianco di qualche bambino o piagnucolone. Nell'inferno, invece, i dannati soffrivano la fame e il freddo, dovevano pagare un fottio di tasse e si recavano e ricevevano visite dai parenti rompicoglioni anche più volte al giorno. Buonasera e ritornati su Bazinga Z. Buonasera. Abbassami il microfono, Gabriel. Praticamente ci siamo. Buonasera a tutti. Ci siamo preparati l'intro in qualche minuto, praticamente poco prima di cominciare la trasmissione abbiamo preparato quest'intro con questa diciamo carrellata di stronzate sui Maya con la colonna sonora dei Doors. Come potete notare, risulta da essere, io non mi sento, Gabriel. Può essere... Noi ti sentiamo. Ah, voi mi sentite? Allora va bene. Allora è la mia cuffia che fa schifo. Comunque, dico, è risultata un po', diciamo, tipo, non qualcuno lo so, saprebbe dirmi cosa ho detto, perché io non l'ho capito. No, è stato malvagio, no? Perché ti sei impappinata. Gabriele rideva. L'importante è partecipare. Io ridevo perché Gabriele rideva. Insomma, in poche parole, c'è un po' riuscita. C'è un po' riuscita come una mezza ciofeca, diciamo, grosso modo. Evviva le ciofeche! Evviva le ciofeche, evviva le ciofeche. E poi, tra l'altro, vabbè, intanto noi siamo tutti contenti di essere vivi, di essere ancora qui, anche se molti di noi, almeno credo, spero tutti voi, non credevamo, insomma, che il mondo finisse sul serio il 21. Ragazzi, voi vi immaginate fare, non lo so, la puntata dall'inferno? Esatto, probabilmente perché in inferno nell'inferno c'è il wifi, non so se sì, lo sai. C'è Dante Alighieri con lo smartphone, quello della team, ops. L'hanno messa proprio, si chiama Devil Hotspot, praticamente. La password è 666. Si chiama Crackastopi. Crackasto Devil, non lo so, ci sarà qualche password, qualche cosa. Insomma, benissimo. Ah, io immaginavo ci fosse già un'interazione interessata, ho detto qualcuno mi conta. contatta su Facebook per dire benvenuti. Invece Marzia Germilli ti ha invitato a provare Bubble Age su Facebook. Vaffanculo. Vaffanculo. Non lo voglio provare Bubble immagino, Age. Immagino che siccome a Palermo, no, essendo che noi abitiamo a Palermo, abbiamo spesso visto che ci sono delle connessioni che si chiamano tipo Mumu e Mumu, minchia rossa, tipo cose del genere. E là che c'è? All'inferno che cosa ci potrebbe essere? Demonio 666, non lo minchia so. Che cavolo, da un Palermo. Minchia cavolo, che poi Belzebù 87, tipo. Stu cavolo manca l'inferno. Manca l'inferno. Avete aria condizionata, tipo cose del genere. Niente, quindi nessuno è stato all'inferno. Almeno, probabilmente qualche nostro ascoltatore sarà morto, noi non ne sappiamo niente. Ci sta ascoltando. Condoglianze. Scusa, hanno il wifi. Sì. Ah, invece un'interazione già ce l'abbiamo ed è Bartolamico che dice: se tornano i mitici Bicchi 88 è un artista con Bazinga. Non è Bazinga, ma è Bazinga Z, caro Bartolo. Mi dispiace apostrofarti, ma abbiamo cambiato nome sì, per sì. La seconda stagione, Bazinga Z. Ovviamente tu sei scusato, anche se mi devi ancora offrire una birra in colonne a Milano, ma questo è un altro paio di maniche. E ci retweeta pure Narcix che ci sta ascoltando. Ciao Giovanni, ti voglio bene. Poi ci racconterai la tua apocalisse di oggi per tornare a casa, che era una cosa abbastanza divertente. Insomma, che cos'è? Giovanni, che cosa ha fatto oggi? Esatto. Praticamente oggi era il giorno dell'apocalisse. Hanno soppresso due treni. Lui è partito da Palermo. Ma quindi più che un'apocalisse, diciamo un'epopea. Un'odissea. Infatti, apocalisse non c'entra nulla effettivamente con questo termine. Però comunque Giovanni è partito da Palermo alle 12, è arrivato penso a Campobello di Mazzaro, ovvero credo siano 80 km se no 100 km massimo, alle 8 di stasera, quindi ha fatto un bel viaggione, quindi odissea ed apocalittica, odissea apocalittica, mi piace. Va benissimo. Intanto ci saluta anche poi Giulia. Ci sta sempre poi il ruttino in sì, diretta, il ruttino, perché ho bevuto vino. Odissea diretta. Sì, sì, sì, perché mi piace ruttare. ci trovi gusto. Giulia invece dice che c'è l'apocalisse a Palermo perché la luce viene e se ne va a simpatia. Quindi buono. Secondo me sarà uno scherzetto dei uno scherzetto dei Maya, sì. Uno scherzetto maico, probabilmente, non so come si dice. Cioè, mio padre mi dice sempre: ma sti Maya non dovevano venire oggi, che fine hanno fatto? Ma chi ha detto che deve venire, che devono venire i Maya? Papà aveva interpretato malissimo la profezia. Come d'altronde l'hanno interpretato tutti, anche perché a quanto pare, vero Gabriele, tu che ti sei informato tantissimo, non esiste alcuna profezia Maya. No, non esiste alcuna profezia Maya, semplicemente i Maya avevano in questa religione avevano un calendario, giusto? Uh-huh. Che praticamente era un calendario ciclico, giusto? Nel senso che ogni tot anni, tipo non lo so, ogni mille anni, questo calendario finiva e dopo ricominciava. E poi si è capito, non mi sento più in cuffia, si è capito che era tutta una cazzata, perché semplicemente ricominciava il calendario da oggi in poi, perché non mi ricordo, la fine del quinto... Dalla quinta era, qualcosa del genere. Qua ci suggeriscono il calendario Maya e il calendario utilizzato dai Maya e dalle altre popolazioni dell'America Centrale, perché lì non arrivava quello di Aida Jespica. Esatto. Adesso ti spiego che cos'è. Esso si basava su più cicli di diversa durata. Il ciclo Tzloklin, con una durata di 260 giorni. Il ciclo Hab, con una durata di un video a caso su YouTube. E poi il ciclo mestruale, con una durata di circa 5 giorni al mese. Grazie a questo complesso sistema di numerazione, una qualsiasi data veniva rappresentata da un numero spropositato di cifre che richiedeva settimane per poterla calcolare. Era un lavoro talmente esasperante che, al tempo, chiunque chiedesse l'ora rischiava la pena di morte per stritolamento di capezzoli. Adesso queste cifre vengono utilizzate per fare i codici IBAN. Ecco da dove derivano. Giulia ci dice che anche lei ha il ciclo, però una di un altro tipo praticamente. Ah, ho capito. Fa parte del calendario Maya. Fa parte del calendario Maya della natura. Sono insomma, fonti, diciamo. Bartolo chiede venia. Dice: scusa, compa, a metà gennaio sono a Palermo e ti offro una cascia di birra. Sì. E ancora aspettiamo sta birra. Ancora. Mi sa che a metà gennaio vengo a Palermo. Però la cosa scioccante è che, diciamo, questa profezia, questa cosa, non è la prima volta, diciamo, che viene predetta la fine del mondo. Si era fatta negli anni 70, negli sì, anni... San Giovanni già aveva scritto l'Apocalisse, però non aveva dato una data, diciamo. Invece poi c'è stato Nostradamus, che negli anni 70, se non sbaglio, No, Nostradamus è tipo 1500. No, ha detto che sarebbe finito negli anni 70. Ma io ricordo che c'era qualche altra profezia che diceva che finiva il mondo anche nel 2000. Nel 2000 si diceva pure, nel 1000 si diceva che finisse pure nel il mondo. 2000. Io ricordo questa cosa, che l'avevo letto, tipo io ricordo un'immagine di un libro di storia delle elementari e c'era questa immagine della fine del mondo. Devo cercare fine del mondo durante la storia. Praticamente la cosa scioccante è che questa volta è stata la prima volta che la fine del mondo si è sparsa sui social network come una specie di virus. Insomma, Twitter, Facebook e tutti gli altri social network, in questo momento me ne vengono due, gli altri non lo so, aggiungeteli voi a fantasia, ci hanno fornito, diciamo, grossissime perle, tra le quali per esempio Twitter stesso ha due hashtag bellissimi che sono nati negli ultimi giorni e sono confessioni prima di morire, l'altro che non ricordo e anche perché non riesco a trovare il mouse, ecco qua il mouse, l'altro è domani non posso morire perché, praticamente ci sono una serie di storie interessanti su, cioè tutta la gente che racconta perché non può morire o che cosa ha fatto ed è si vuole liberare di questo peso prima di morire, dato che la morte si avvicinava. Leggiamone magari qualcuno. Intanto io volevo cogliere l'occasione per salutare Irina Cappotto, la mia collega, che non crede che io sono in radio veramente in diretta. Allora ti dico una cosa. Ma sei fidanzata? Oggi è il 21/12/2012 e sono le 21:13 minuti. E quindi se dici tu sono veramente in radio, sì, sei davvero in radio, è Gabriele. Irina, siamo qui. E aspettiamo, sì. Dimmi una canzone, sei te la zita, dedico, te la canto zita. Io. Sei zita. Irina, no. C'è mio fratello, vuole sapere se sei fidanzato senza neanche aver visto la foto. Vabbè, ma io così sparo nella mischia, prima o poi beccherò qualcuno di interessante, sì. Probabilmente. Comunque andiamo a leggere qualcuno di questi tweet. E guarda, per esempio, la cosa brutta di Twitter, ora ultimamente, è che è popolata da bimbi minchia in maniera colossale. Per esempio l'hashtag domani non posso morire perché trovo proprio in prima posizione come top tweet questo: domani non una toy cuoricino, ovvero Giorgi, come si chiama, Giorgi cara George, dice: domani non posso morire perché non ho abbracciato i One Direction. Uno, non ho abbracciato i One Direction. Ah, One Direction. Due, perché non sono andato ad un loro concerto, il mondo non finirà. Quindi grazie a Giorgi, povera Giorgi, Giorgi cara Giorgi, penso sia un cartone animato giapponese, non so se vorrei dire. Giorgi, comunque, ha detto il mondo non finirà perché lei non è andata da One Directions. Sì, quindi probabilmente grazie a questa toy cuoricino Giorgi cara George che non è finito il mondo, e meno male, grazie. Ce n'è pure uno bello: domani non posso morire perché c'è scritto è l'hashtag mas largo nel che è partecipato ultimamente e domani non posso morire perché. Ma scusa, se sei spagnolo, in Spagna, usa gli hashtag spagnoli. Come si può dire domani non posso morire perché è spagnolo? Domani non puedo matar domani perché non puede morir. Non puede morir perché? Olè! Ci sarà sicuramente un olè alla fine. Poi c'è la S finale. Oless. Oless, quello senza dubbio. Poi praticamente Vito Giannini ci contatta e dice: tanti cazzari che non hanno niente da fare dicono che il mondo deve finire. Il mondo deve finire, quindi perché queste persone hanno nulla da fare? Io avevo letto un tweet bellissimo. Dice: era questo qui che era confessione prima di morire. No, era domani non posso morire perché cominciava così e poi diceva: no, anzi, io posso morire, tanto la mia vita non ha alcun senso. Ed era una ragazzina di 13 anni. Era una cosa davvero di una tristezza spaventosa. Intanto queste ragazzine che si ta. No, oppure c'era confessione prima di morire. C'era un'altra ragazzina che diceva: devo confessare prima di morire che una volta ho provato a tagliarmi, però mi sono accorta di essere, tipo, come si dice, emofobica. Emofobica si può dire, sarebbe paura del sangue. Emifobica perché c'è. Non ha paura di. Cioè, Emi l'avete presentata. Avete presentato Emi oppure non l'abbiamo detto? Cioè, nel nostro gruppo c'è scritto. Allora. Comunque il nostro ospite d'onore è Emi Lombardo. Aspetta, che cugina, ti preparo gli applausi. Il rifallo. Il nostro ospite d'onore, ladies and gentlemen, is Emi Lombardo. Non era questo. grazie mille, sono emozionatissima. Ragazzi, ci abbiamo perso la mano questo cazzo. Bip di coso. Comunque, poi c'è uno che ha detto: domani non posso morire perché devo ancora ordinare qualcosa su Zalando e gridargli in faccia quando mi consegnano l'ordine. Questa qui è bellissima, cioè nel senso, uno che non vuole morire perché ha questo fatto. Cioè, ci è rimasto male perché quel ragazzo, abbastanza adulto. Giulia, cioè, ci dice: no, non avete detto ciao Emi, non avete presentato Emi, siamo dei vergognosi bastardi. Hai ragione, Giulia. Quindi c'è Emi, Giulia ti saluta. E tutto ciao, ciò Giulia. Che questo comporta. Insomma, praticamente cominciando una... cominciamo con la musica. Questa sera è una canzone che Gabriele dedica a tutti, che è lui che me l'ha fatta scaricare. Io personalmente Irina, che io personalmente la odio perché questa così ci ascolta ogni giorno. Skyfall, che ogni cosa venerdì vuol dire? Skyfall vuol dire cielo caro. Cielo caro, quindi diciamo si intona con l'apocalisse probabilmente. Skyfall, come si dice? Adele. Yeah. Adele, Skyfall. Adele. Questa era Adele con Skyfall. Bentornati su Bazinga Z, ragazzi, su Radio Sisma, in questo bellissimo studio, bellissimo, dentro il Palazzo Filangieri di Cutò. Abbiamo qui davanti la nostra Piazza Matteotti a Santa Rita di Pedicia, che è gremita di gente che è venuta per ascoltarci anche dal vivo, praticamente. Ci sono qualcosa come 2000 persone. 20 milioni di ascoltatori. Sì, sì, sotto la pioggia, tutti con gli ombrelli, sì, sì. Proprio... E tutti salutate, fateci sentire il nostro applauso. Sono scarsi, siete scadenti, fate schifo. No, poveri ascoltatori, io voglio tanto bene ai nostri ascoltatori. Tra l'altro c'è una nuova ascoltatrice oggi, si chiama Valentina. Quindi Valentina, ha messo pure mi piace alla pagina. Quindi benvenuta tra noi Bazinghi Zeti. Non lo so, come possiamo chiamare gli ascoltatori di Bazinghi? Bazinghini è troppo gay. No, non va bene Bazinghini. Praticamente volevo anche salutare, ho salutato già Giovanni Conte, ovvero Narcix, perché doveva essere qui stasera, doveva venirci a trovare in diretta solo nello studio, solo che purtroppo per questa serie di sfortunati eventi, quel film bellissimo Jim Carrey, te lo ricordi? Fantastico film con Jim Carrey, diciamo non è potuto venire perché gli hanno cancellato 8 treni, gli hanno distrutto un autobus, gli hanno ucciso il panda, insomma è successo una serie di stronzate. Il cane si è suicidato, il gatto sulla pentola a pressione, insomma una serie di stronzate, una serie di circostanze fastidiose, e lui questa sera ci sta ascoltando da casa e lo risaluto. Ma sarà, ci sarà sempre occasione, Giovanni, e l'importante è che mi chiami prima, così ti posso sbattere la porta in faccia quando vieni a suonare. E salutiamo Amy che si è connessa ora su Facebook. Ciao Amy. Grazie. È bello, tipo, che solitamente Amy ci ascolta da Pieve di Cento, come si chiama? Come si dice? Pieve di Cento. In italiano quello serio. No, per favore, non fatemelo fare perché io lo odio e mi prenderei a schiaffi da sola. Avete capito? Amy solitamente si connette a Pieve di Cento e ci saluta. Ciao a tutti, sono Amy, sono incredibile, è proprio la Piedina, sono cose. Esatto. Non si può sentir parlare così. Che fastidio, infatti. Tutto il tempo. È meglio siciliano che sono con caicato e poi una cosa palermitano. La pizza è meglio così. È meglio parlare palermitano. Quindi noi siamo palermitani di adozione. Niente. Ragazzi, quindi, fateci sapere un po' come avete vissuto la fine del mondo. Se avete visto asteroidi cadere davanti alla vostra casa. Come quello di Palermo. È bellissimo. Come quello che c'è stato a Palermo. Recupera questa intervista. Non so se avete saputo. La recupero io. Proverò a recuperarla io. Aspetta un secondo, vediamo dove la posso. No, dico, ne parli io mentre la recupero. Comunque, questo meteora, asteroide, eravamo tutti morti. Si chiama, tu lo sai che si chiama, ragazzi, curiosità del giorno. Mettimi la curiosità del giorno. che mi sono inventato in questo momento è che una cosa che non sanno in molti: meteora è, si chiama meteora quando è fuori dall'atmosfera, invece si chiama meteorite quando è all'interno. Minchia, questo è davvero... Tu lo sapevi questo? No, lo sapevi questo? No. Quando è in collisione con l'atmosfera si chiama meteorite. Comunque è caduto questo asteroide, questo meteorite è caduto a Palermo, nella località di Brancaccio, sì. Di fronte a una palazzina, e una bambina dice di averlo visto, assieme ai propri genitori hanno raccolto questo pezzo di sì, pietra. Sì, qua c'è la storia, la mandiamo in onda. E hanno visto che non era... Non era una pegiazza, diciamo. Non era una pegiazza di chissà dove, poi che trovi nelle cantonere, come si suol dire. Poi c'è anche da notare la bellissima, diciamo, la grammatica spettacolare della gente palermitanazza. Come spiegano il fatto che c'è una pietra che cade dal cielo? Comunque, esatto. Hanno dato questa pietra, hanno cercato di raccoglierla, hanno visto che con un foglio di giornale prendeva fuoco. Vediamo, facciamolo sentire proprio dalla voce della bambina e dalla madre della bambina, che è ancora più grezza dalla bambina. È quel stessa. Luogo a Brancaccio dove è caduto quello che pare essere un meteorite, il grosso sasso piovuto dal cielo ha fatto un buco nel campo di cemento. A vedere il corpo celeste tre bambine, la prima che l'ha preso da ieri piange, anche se non ha segni di scottatura, ha detto più volte alla mano che le brucia la mano. Ma sentiamo cosa è successo ieri a Brancaccio dai diretti testimoni. Ero affacciata e stavo guardando il cielo, era pomeriggio. Il cielo. E ho visto una cosa che a me sembrava gli aerei, quelli che passano via. Ma io ho detto, ma l'aereo non scende verso il basso, ma Perché solitamente si scende verso l'alto. Poi io l'indomani sono voluta scendere, io ho detto, perché io mi sembrava una meteorite, già lo sapevo. Ah, già lo sapevo. Che lei è studiosa. E sono scesa, siamo arrivati nel campo. Sono scesa. Prima loro sono passati e non si sono preso caso. Poi io l'ho vista, faceva impressione, quindi l'hanno presa loro. Lei è una bambina, magari ci può stare, diciamo che non sa coniugare bene grammaticalmente i verbi. Ma sentite più avanti, adesso. Il giornale ha preso fuoco, il giornale. Ah, anche quello è incredibile. La pietra era fredda e la carta era calda. Ho visto una cosa e poi non si è vista più. Poi il domani sono scesa, era... Ah, bah, ho capito. Che ho visto la scia verso cadere verso giù. Oh, sì. E l'indomani sono stata curiosa, ho detto, salire verso giù e sono scesa. Arre! Aspetta. Ecco la figlia, la magia. Questa cosa l'abbiamo messo sopra la tavola e mia madre aveva paura. Quindi poi l'abbiamo presa. Oh mio Dio, una pietra! Sì, guarda che bella. Abbiamo visto che questa carta prendeva fuoco. Fuoco? E mia madre ha telefonato alla polizia. Vuoi dire? Cioè, perché ho visto che questa cosa prendeva fuoco, era calda. Ci siamo messi di più paura. Sono venuti e se l'hanno portato. Anche loro avevano un poco di... Però poi se l'hanno portato. Anzi, io ho detto prima di portarselo, io ho detto, scusi ai poliziotti, lo posso guardare per l'ultima volta? Dice, sì. Ho paura. E questa è la madre, chiudi questo televisore, chiudi, si spaventa, io ho paura. Che si apre il televisore. Io ho paura, perché sono un tipo nervosa. Mi sembra che deva succedere qualche cosa. Con questo segnale, mi scusi. Giusto. Che cosa? Apocalisse. Esatto, probabilmente visto a Palermo e basta. Visto che è caduto un meteorite. Tu voi per stare bene chiudete il televisore, proprio chiudetelo e chiudete il televisore. E sarete tranquilli. Non abbiate paura dei meteoriti, perché mio marito mi ha detto di chiuderlo perché insomma io sono una persona nervosa. Sono una persona nervosa, vuol dire che uno le cose capisce, soca, figlie polo, così, il palermitano medio. Certo, se non lo dico. Ma anche la bambina aveva queste cose, e che sono scesa sotto, c'era questa bocceria, c'era soca, figlie polo, tutte cose, già da piccoli praticamente. C'era a me peccio, ho fatto il fame al meteorite e non mi ha dato pecciole, allora l'ho inghettato, capisce? Ora era a me pecciole. Tu immagini, è bellissimo, sì. C'è Giulia che vuole mandato il link di questo video, Giulia ci sta anche pregando. Ci prega di mandare il link del video del meteorite caduto a Palermo, è incredibile. Poi se l'hanno portato. Se l'hanno portato, anche Byte lo dice, se lo sono portato, chiamate i sbirri, cacaitta peglia fuoco. Praticamente ci dice che è normale, diciamo, la carta ti prende fuoco, allora tu chiami i carabinieri, è normalissimo. Certo. È una cosa che farebbero tutti, nel senso... Ogni volta che accendono il cammino. Anche adesso io do fuoco a questo pezzo di carta. Chiamate i carabinieri! Capito, è normale. Per noi... c'è un tweet di Vito Giannini che ci aveva detto... tempo fa ormai, anni, l'ho letto adesso, praticamente riguarda il fatto che quella ragazzina aveva detto che il mondo non poteva finire perché lei non aveva ancora visto un concerto in diretta dei One Direction. E ha detto ragazzine che non riescono a digerire i plasmon e vogliono morire. No, forse si riferisce a quella là che si tagliava. Quella che si tagliava però era emofobica, cioè paura sangue. Credo che funzioni così. Oppure no, potrebbe anche essere che ha paura di Emi. Emi, tu hai conosciuto qualche persona che ha paura di te? Qualche emofobica? Quindi non ci sono emifobici. Quindi nessun emifobico. Di incontrare qualcuno che mi urlerà in faccia, allora dico minchia un emofobico, oppure chiamerei i carabinieri perché prendi fuoco e magari lì capirai che hai incontrato un emifobico. Ma niente, praticamente c'è gente che non voleva morire, dice domani non posso morire perché devo mangiare la polenta e spezzatino di mia nonna domenica. Che l'ha detto Clio Makeup. La conoscete, no? Che è la persona più fastidiosa del mondo, perché è una grassa bruttissima cessa che tra un mascara e un fard si mangia la polenta di sua nonna. È ingrassa come una bestia. Sapevatelo, visto che parliamo di Twitter. Sì. Poi ci sono altri, domani questa è fantastica. Ciao Tom Flingo, non lo so lei. Dice domani non posso morire perché sono ancora vergine. Ah sì, l'avevo letta. Qualcuno doveva dirlo. Giusto tu. Domani non posso morire perché non ho ancora assaggiato una torta preparata da Buddy Valavastro. Non so chi sia. Neanche io. Devo cambiare. Forse ancora il boss delle torte su Real Time. Cioè, non sono pochi quelli che diciamo amano i One Direction. Dice domani non posso morire perché arriveranno i One Direction cantando Save You Tonight e mi salveranno. Ma che tristezza. Poi la cosa è tipo strana, nel senso che me ne vado. Diciamo prima questi hashtag erano stati interpretati correttamente, ovvero confessione prima di morire, stai per morire sarcasticamente di qualcosa. Io per esempio ho detto confessione prima di morire, vi confesso che ho fatto io quella scoreggia nell'ascensore, per esempio. Era una cosa così fino a se stessa. Poi la gente invece l'ha un po' travisato. Infatti c'è confessione prima di morire, da piccola giocavo con The Sims e facevo fare fighi fighi personaggi. Vabbè, chi è che non l'ha fatto, io dire? Chi è? Ma è normale. Tu facevi fare fichi fichi personaggi su The Sims. Io una volta avevo inventato un personaggio che era fatto apposta per cercare di stare con tutte le donne del gioco. Volta mi ricordo che ho fatto una festa e lui pian pianino ci provava con tutte quante, fin quando tutte quante non sono andate a schiaffeggiarlo. È stato bellissimo. Aveva un abito in latex, sicuramente, qualcosa di plastico. Era meglio di una puntata di Beauty. Fantastico. Oppure meglio di un porno, diciamo, perché The Sims insegna questo ai bambini che ci giocano, insegnano come fare fighi fighi, appunto. Domani non posso venire perché devo ancora trovare un biglietto dei Baci Perugino che abbia un senso. Questa è giusta. Poi c'è Dio, che si chiama Iddio. Iddio. Domani non posso morire perché sono Dio e ho un sacco di lavoro. Come dargli torto, diciamo, al nostro Dio, grandissimo Dio. Che tra l'altro prima mi seguiva, ora penso è diventata una tweet star, quindi non mi seguirà più. Stronzo, schifo, bastardo. Stai bestemmiando. Sì. Ah, scusa, no. Non intendevo in quel senso. Vabbè, perché sappiatelo, dopo il Papa c'è anche Dio che ha Twitter, praticamente. Chi aveva da capire ha capito. Il Pontifex. Non so se l'avete visto, il Pontifex su Twitter. Ora ne parliamo. Mentre mandiamo questa bellissima canzone che a Gabriele... No, mi è scappata, perché... No, è qua. Che a Gabriele piace tanto e mi ha ammorbato una settimana con le note. Come un branco di lupi che scende dagli alti piani ululando, o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti? Sono le leggi dove regna soltanto il denaro. La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Allo sguardo interiore, innere sauge, da sinere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare, ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creato. Questa canzone ci ha fatto crescere gli ascolti in maniera esponenziale. Grazie Franco. Grazie Francuzzo, che ora, come grazie sappiamo, Francuzzo, come sapete tutti, adesso è assessore. Assessore alla, alla cultura, non mi ricordo. Sì, assessore allo spettacolo, assessore all'Innesimmerhaus. Allora, devo fare due saluti. Uno prego, è per prego, mia cugina Oriana, che si è connessa e ci sta ascoltando. Che saluta, sorella di Emi, che Emi non se la caga saluta, praticamente. Ciao, Mesa! Ah, e poi vedi scendere di corsa. Scendi Oriana, ti aspettiamo con ansia. E poi volevo salutare Martina ansia con ansia, con ansia, con ansia, con ansia, con ansia, nel senso con la zia, perché ansia, e poi volevo salutare Martina Gallo. Martina Gallo, che è la coinquilina, fidanzata. Martina, sei fidanzata? No, sinceramente non lo so, credo di no. Cioè, solitamente quando c'era Roberto Anzalone, il nostro conduttore, noi cercavamo tipo ragazze per lui. Adesso, visto che non c'è, io cerco ragazze per infatti, me. Diciamo, mio fratello è single. Sono single, potete ho bisogno di cercarlo, di fare all'amore. No, su Facebook cercate Gran Figone. Gran Figone trovate lui. Me, esatto. Sì, sì. E quindi facebook.com/figo, figo 88 sono io. Figo 88. Lasciamo stare, se no si va a finire. C'è un'altra cosa. Bartolamico dice: domani non posso morire perché sono cancro. Qualcuno dice: non lo so, l'hai scritto tu no, oppure l'hai credo, letto? Non è da Bartolo. Perché sono cancro. Forse sono cancro come cosa dello zodiaco, nel senso, come si dice, segno zodiacale, oppure non lo so. È una cosa brutta. Ci dovresti spiegare. Perché poi dice: perché sono cancro, vicchio 88. Io non sono un cancro. Sì, ma addirittura tu pensi che ci sono, riguardante questa profezia dei Maya, che oggi doveva cancellare tutta l'umanità dalla faccia della terra, c'è gente che dice che c'erano dei posti in riservati Italia, in paradiso. No, dei posti in cui erano sicuri, diciamo, dei posti in cui non vi succedeva niente oggi se c'era questa cosa. In che senso? Ah sì, uno era Cisternino in Puglia. Che è successo? Dicevano che era uno di quei pochi posti che si poteva salvare dall'apocalisse. Ma perché? Perché i Maya avevano detto così. Di proprio Cisternino, provincia di Foggia, non lo so. Sì, ad Albero Bello. No, non mi sbaglio, sarà... Cerca Cisternino su un'enciclopedia che non esiste. Tra l'altro all'inizio della puntata cercavamo qualche cosa per aprire la puntata. Abbiamo messo su un'enciclopedia. Vi invito ad andarci perché è una cosa simpaticissima. Se andate su un'enciclopedia c'è un buco nero. Enciclopedia.wikia.com. Non lo troverete. Perché vi dice: abbiamo problemi col nostro pianeta. C'è un buco nero e si sta risucchiando tutta l'enciclopedia. Sempre rotto. Ma non è colpa mia, ragazzi. Non lo so. Non mi dovete dare E adesso la prossima canzone. Ah, poi c'è Valentina, la ragazza di Pieno, dice: devo dire che sai imitare alla perfezione tutti i dialetti, da quelli nordici al palermitano stretto. Complimenti. Grazie mille, Shachme, incredibile, Shachme. No, non li so imitare. Sono un imitatore dilettantistico, diciamo. Valentina, però... tu sei di Palermo. No, sapere. Non è di Palermo, non è facci di Palermo. Sapere se sei di Palermo. Sei di Palermo, anche perché quelli di Palermo valevano un pochettino la cosa. Hanno pure un pochettino la. Com'era? Tu facevi la. Un po' con la Ed Motion. La Ed, ma io giustamente. Sono di Palermo, la Peccia, sì, la ogni tanto mi capita di parlare così, mi chiede il telefono, io rispondo pronto. Oltre a questo pronto. Poi la cosa assurda dei ragazzi di Palermo che camminano in punta di piedi, non so se ci ho fatto caso. No, come in punta di piedi, come ma se avessero un bastone conficcato in culo. Poi ve lo faccio poi ve lo mimo, ragazzi, perché cioè, è una infatti cosa tu vero. Voi riconoscete un palermitano dalle scarpe, perché se guardate la suola è consumata solo nella punta. Ah, c'è pure Marco Squeromeli che ci ha retweetato Radio Sisma, e immagino, cioè lui è di Palermo però non hai questo difetto di camminare in punta di piedi con un bastone ficcato in culo pagando. Ah, ma cos'è? Ignoto. Ora a me picciolo, tu no, tu non lo fai. Oh, ragazzi, ma scusate, devo fare un saluto a Pasquale, prego, Corcillo, prego, che ci sta ascoltando da Salerno. Ciao Pasquale! Ciao Pasquale! No, Salerno non è così. Ehi, hey, no, hey, Benvenuto su Radio Sisma, Pasquale. Il napoletano mi riesce male, Pasquale. Pasquale! Pasquale! Salerno, non napoletano, attenzione. No, dico il napoletano nel senso Pasquale. Il campano, il dialetto campano. Quindi se tu dici a uno di Salerno, gli dici che è napoletano, napoletano è come se dici a un catanese di essere palermitano. Che è un'offesa gravissima, esatto. Se, se perdiamo un ascolto è lui che si è disconnesso, sicuro. No, anche lo vedremo. Anche sui 1500 che abbiamo non ci sono problemi. Anche perché, se non sbaglio, diciamo, forse era il derby Salerno-Napoli, credo sia tipo tra i più pericolosi dell'universo, forse, se non sbaglio, dopo Palermo-Catania probabilmente. Mi stanno chiamando, chi è? Dario Ciaccio? Che cosa vuole? Dario, pronto? Sei in diretta su Radio Sisma. Ciao, Vicente. Ciao, sei in diretta. Volevo sapere un'informazione in diretta, come facciamo a entrare dentro la radio? Sei qua fuori. Ti stanno venendo ad aprire, Dario. Rosario, puoi aprire a Dario sotto. C'è Dario sotto. C'è Dario. Sotto c'è qualcuno che non riesce ad aprire. Ci stanno andando ad aprire. Stanno arrivando, e Dario. Sta arrivando, arriva la cavalleria. TBB. Ciao. No, attaccato. Questi sono gli inconvenienti della diretta. Comunque, Vincenzo, ti volevo avvisare del fatto che Martina Gallo è single. Ah, è single. Ciao Martina, sono sexy e mi sto laureando. Ho un patrimonio di 1 miliardo di euro in banca. Posso comprarti tutte le borse Prada che vuoi. Praga pure, se possibile. Quelle adesso parli così. Parlo con gli esci. Incredibile, sì. Non lo so perché. Ogni tanto si cambia. Ah, c'è un Nikuz che dice. Un Nikuz, perché ce ne sono tanti, diciamo. Cioè, Nikuz su Twitter dice: finalmente avete ripreso gli occhi a stellina. Grazie, Nikuz. Anche noi, Nico Maiorana. Grazie, anzi, grazie. Voglio fare chiarezza sul fatto perché abbiamo smesso di fare radio. Cioè, non abbiamo smesso perché ci annoiavo. Diciamo perché che abbiamo preso quel periodo di pausa, quei tipi di quelle frasi fatte. Sì, che dicono alle ragazze. La relazione sta andando avanti. Perché sì, però, non ti amo però più. Penso più a te appena svegliato. Adesso ti spiego. Però mi devo prendere un periodo di pausa perché praticamente devo riflettere. No, praticamente io avevo una lezione di un corso che si chiama controlli automatici, che mi costringeva a stare a Palermo fino al venerdì sera tardi, abitando, cioè non potevo tornare. Minchia, un mare di birra! Signori, Dario. abbiamo Dario e soprattutto Dario. Abbiamo la birra. Un applauso a Dario. Un applauso saluta Dario. E c'è pure Daviduccio. Ciao Davide, benvenuto in studio. Abbiamo ospiti in studio. Vuoi fare un saluto? Dai Davide, fai un saluto in studio, in radio. Dai. Si vergogna Davide, un pochettino, diciamo, come si dice. Saluta chi vuoi tu, dai. No, Dario, fai un saluto. Dovete mettere la canzone quella. Ha trovato il mio vino e se lo sta stratacannando. Una di discoteca. Vai Davide, così. Ah, Milano Marittima. Saluta Milano Marittima. Benissimo. Va bene. Non ci sarà nessuno. Ci saranno 3 persone ubriache probabilmente, sole, tristi. Vabbè, salutiamo Milano Marittima. Mentre ci organizziamo con la birra, vi mandiamo un'altra canzone e poi parliamo di un altro po' di cose. Ora ci organizziamo. Our Father, whose art's in heaven, hallowed be thy name. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're a sort of punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that. This girl is Our Father, whose art's in heaven, hallowed be thy name. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. Mentre noi eravamo disattenti, ed è successo che è partita da sola una trasmissione, quelli della radio, di Radio 2, non so per quale oscuro motivo è partita così da sola, va benissimo, insomma no, vabbè. Era un podcast nostro, io non li i nuovi programmi di Radio Sisma, purtroppo, dato che ho avuto questo imprevisto del corso pomeridiano e serale di all'università, insomma, di controlli automatici, non ho potuto vedere i nuovi programmi, ascoltarli, conoscere i nuovi speaker, insomma. Però so che Radio Sisma si è espansa in maniera allucinante, sono contento di questo, perché è un progetto diciamo che è partito dal nulla e abbiamo creato qualcosa che adesso fa pure in giro per l'Italia. Com'era la storia Radio Sisma? Com'era? La scossa nazionale. Ci sono tantissimi altri ragazzi che la fanno direttamente da loro, da casa, diciamo, da qualsiasi tipo. Allora, dice, ma che combinate con questa musica? Infatti, scusa Valentina, non combinavo niente, è partito qualcosa così da solo, non so di che cosa si trattava. Sì. Poi tra l'altro era una canzone bellissima, che era Lana Del Rey, ed era la canzone Blue Jeans, parlava di una che il ragazzo aveva lasciato. Ve la riepilogo, diciamo così. Così, insomma, questo. Cioè, come si dice? Tristezza appalata. Tristezza, insomma, appalata. Sì. Meno male che si è tolta. Un'altra cosa di cui volevo parlare è di questa piccola gag che ho letto su 9gag.com. Parlava del fatto che girava questo cartello che ha scritto: Calm down, if the Mayans were good at predicting the future, the wolves would be Mayan. Ovvero sì. Ovvero no, sicuramente. Ovvero dice: state tranquille, se i Maya erano così bravi a predire il futuro, ci sarebbero ancora Maya. E un tizio ha zoomato tantissimo su ci sarebbero Maya, ci sarebbero Maya, ci sarebbero e Maya. Ha postato delle foto del fatto che ci sono veramente i Maya, i suoi ragazzi, parenti sono Maya, dicendo lui noi stesso è un Maya. Noi abitiamo a Kluglanzlaglaglaz, Messico. No, abitano, si chiama un Niño Zorzil, Ninja Catan, Zina Cantan. Su Google Zina Cantan con l'accento sull'A, però no, quello inclinato così tipo a Scina, a Chianara, accento a Chianara, come si chiama? In Messico, e il tizio si chiama Edu Manzede, dice: quindi voi credete alle persone che noi non esistiamo, però credete ancora alle nostre profezie, anche se noi esistiamo tuttora. Insomma, i Maya esistono, non ci credono, i Maya esistono, la gente non crede che esistano, però credono alle loro profezie, che tra l'altro non era neanche una profezia reale, ovvero nessuno aveva mai parlato alla fine del mondo, e quindi niente, è un toculo ai Maya, una cosa che si è detta. Un toculo ai Maya, che l'ha detto cosa, come si chiama? Nino, come Frasca, si chiama? Nino Frasca, è Antonio Albanese. Antonio Albanese, ecco. Comunque, Antonio, io volevo salutare Cetti, la mia ragazza, e poi Oriana mi ha detto che abbiamo un nuovo ascoltatore da Vigevano, che sarebbe Alessandro Azzarelli, e noi lo salutiamo. È un Dario, imitaci il dialetto di Vigevano, vai. Vai, Dario, avvicinati. No, ormai l'ha fatto. No, ormai lo devi fare, vai. Uè, tutto a posto. Questo è un Vigevano, che è un quartierazzo di Palermo, di Villa Abate. Abbiamo detto Vigevano. Cioè, Vigevano è uè, cuscì a posto il dialetto. Davide, tu che sei stato al nord lo sai fare questo? Minchia, vero, Davide. Imitaci il dialetto. Dici un dialetto del nord, dai. Non se la colla, forse sta posando la birra, vediamo se arriva. Vediamo se arriva. Davide, non fare. No, non se la colla. Dai, di qualcosa, dai. Davide, almeno urla, di tipo ci sono pure io, perché sennò non ci credono che esisti. Parla, Bucia, dillo. Sto avviando il discorso cercando le sigarette. Bucia. Bucia, vabbè, niente. Non ti credo, no, ce la siamo inventati, c'è solo Dario, in realtà ci sentiamo soli e ci inventiamo le altre persone. Narcix dice: si sentono le bip dei messaggi facebookiani. Non è vero che si sentivano, perché era un podcast che abbiamo mandato per caso in onda. Quindi ci dispiace, ho ruttato di nuovo la birra. E guarda, beve pure la birra, perché così sta meglio, diciamo, no? Ai. E quindi intanto la partita, quindi, a Cagliari. Alessandro Azzarelli, noi saremo qualche venerdì, saremo sempre qui, diciamo. Qualche venerdì saremo sempre qui. E quindi aspettiamo il tuo ascolto come tutti gli altri. È sempre un piacere avere la vostra compagnia. E niente, stavo dicendo che un'altra cosa importante questa sera che accade non è solo la fine del mondo, ma c'è anche la partita Juventus-Cagliari. E stiamo perdendo. Che ci stiamo perdendo, noi non abbiamo mai mancato una partita e purtroppo questa qui ce la stiamo perdendo alla grandissima. La Juventus sta perdendo 1-0 a Cagliari, siamo al 50esimo, è una cosa che interesserà a pochi magari se stanno ascoltando Radio Sisma, probabilmente non gliene frega una ciofeca della partita. Vorrei sentire magari Skyfall, vorrei sentire Skyfall. Abbiamo già mandato, quindi no. Insomma, abbiamo parlato di questa storia dei Maya che esistono ancora. E un po' ci ha scioccato del fatto che, insomma, diamo per scontate le cose più tragiche. Però nessuno si è mai fatto il flash. Vediamo se i Maya esistono ancora. I Maya sono stati sterminati dai conquistadores. Però ancora qualche piccolo villaggio, qualche piccola radice etnica esiste in Messico, quindi nell'America centrale. Guarda caso, staranno già festeggiando. Staranno festeggiando e soprattutto postano su 9gag a quanto pare. Postano su 9gag che festeggiano l'inizio della nuova era della del nuova calendario era. Maya, che durerà mille anni. Quindi fra mille anni ci rincontreremo il 21 dicembre 3012. Giusto? Siamo contentissimi e parleremo di nuovo di questa. Ciao Domenico, è arrivato Domenico. Oh, Domenico è ritornato. Intanto Valentina mi suggerisce, mi dice: ho appena letto che secondo diverse teorie esoteriche il picco di Bugarash sui Pirenei a 1231 metri sopra il livello del mare è una delle montagne sacre del pianeta, uno degli unici luoghi che si sarebbe salvato alla fine del mondo. E parlavamo proprio di questo. Emi, qual era il posto in Puglia? Tipo Cisternino in Puglia è uno dei posti assieme a questo picco di Bugarash, non lo so come si possa leggere. Noi intanto penso forse tutto il mondo era un picco a quanto pare, perché siamo ancora tutti vivi, oppure magari hanno partecipato, non lo so, ci annoiava fare la fine del mondo oggi. Ma è una domanda che io mi faccio: che cosa vuol dire salvarsi dalla fine del mondo? Se il mondo finisce, come fai a salvarti? Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Ah, diciamo. Ecco. Aspetta, me lo faccio da solo? No, questo che se per caso finisse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Così mi piace ancora di più. Il set trombone. C'è Citti che mi tiene a. Cioè, ci tiene a dire che al Teatro Massimo ho visto Cannito. Ah, Cannito. Conoscete chi è Luciano Cannito? No, sinceramente no. Nessun Luciano Cannito nella mia rubrica su Facebook. Tra gli amici di Facebook, non lo conosco. Ah, va bene. Intanto, comunque c'entri con la puntata. Comunque, ritornando al discorso di prima. Fai un cenno. Ritornando al discorso di prima, insomma, tutti pensavano che il tempo stesse per finire, in realtà non era finito. Anche i Muse con questa canzone dicono "Time is running out". Yeah. siamo ritornati in studio, che ci crediate o no, siamo ancora qui in Tocula e Maia. Sarete contentissimi di essere ancora vivi in questa bellissima giornata. Giovanni, che è quello, il Narcix, che ha vissuto quell'epopea allucinante oggi e che doveva essere qui stasera, dice: ieri sera c'era Niccolò Fabi al Chex in bucceria. Grazie, compa, per questa informazione fine a se stessa. Ti voglio bene, tu lo sai. Comunque, praticamente, dice che la fine del mondo l'hanno posticipato al 15 febbraio 2013, quindi bene o male, bene o male abbiamo qualche altro mesetto di sopravvivenza. Bene, bene, così vediamo di chiudere i conti in banca, scappare alle Bahamas oppure sul monte Bugara, oppure a Pastiglietto da in Puglia, come minchia si chiama. Si chiama il luogo in Puglia. Arre Cisternino, Pistecchietto, Cistertello, Parchietto, Pastiglietto in Puglia. Sembra, non lo so, un nome di quelle marche degli oli extravergine. Non avrete mai imparato. Oppure fare un murale. Sembra uno dei nomi. Cisternino. Sembra uno dei nomi inventati. Cisternino. È presente i nomi che si inventano da Johnny e Giacomo? Dario, tu hai presente quelli che dicono il dottor Pardalla, signor Pastafrulli, tipo sì, dottor Bardilli, tipo sì. Come si chiama? Casterillo. Cisternello. Tavernello, no, vero, aiutatemi, vero, non me lo ricordo. Cisternino. Cisternino o Tavernello per gli amici, a quanto pare. Il vino buono. Tra l'altro ancora dobbiamo capire in che cavolo di provincia della Puglia è. Ma sicuramente, cercalo su Google. Diccio, abbiamo un VIP questa sera. Abbiamo un VIP che ci ascolta, che è Picchio, il grandissimo Picchio, e dice: bentornato a Radio Sisma. È tornato a Radio Sisma con Vicchio 88, Suca Maia, viva le puppe e il raspberry. Quindi grazie Picchio. Picchio è un grandissimo. Dario, questa non te l'ho raccontata, siamo stati al Linux Day e quest'uomo, questo che vedi qua come Sheldon, mi ha passato qualcosa come 250 gigabyte di hentai. Sì, aveva un hard disk. Ti stimo tantissimo. Comunque ci ha detto Rosario che Bruno Vespa è di Cisternino. Ah, Bruno Vespa è di Che cosa, no, notizie sono? Sì. Ha fatto un programma su Cisternino. Sicuramente ha fatto un programma su Cisternino, quindi sicuramente c'era il plastico di Cisternino. Leccava il culo a Berlusconi su un plastico. Su un plastico di Cisternino. Scala 1 su 10 milioni è un micro. Sì, è una cosa minuscola. Bellissimo. Il plastico di Cisternino. Signori, l'ho trovata. Cisternino è in provincia di Foggia. Brindisi! Un applauso. Un applauso che è il 5. Cisternino, olio extravergine Cisternino. Bevilo, è una figata. Bevilo, perché si beve l'olio extravergine. Questa te la meriti con da tutto il cuore. Oppure anche questa. Te la sai anche meritare. Mi scrivi persone che non sanno scrivere New York, ma non capisco a cosa ti riferisci. Per favore, dimmi qualcosa, non lo capisco. Invece Marco Meli dice: redimetevi, che non so se si possa dire se sia italiano, redimetevi. Redimetevi. No, giusto, mi suggeriscono dalla regia che è giusto. Redimetevi, luridi fornicatori, avete tempo fino al 14 febbraio, con l'H finale. Cosa molto twittera, grazie Marco per averci ricordato, tipo ricordati che devi morire, insomma. Ricordati, cercheremo di non fornicare, fino invece Narcix ci dice che Cisternillo, come si chiamava il posto, è piccola cisterna di genere maschile. Cisternino. Aspetta, però la devo leggere con questa cosa sotto. Cisternino, piccola cisterna di genere maschile. Comunque, ragazzi, non lo so, Vincenzo, vuoi cambiare argomento? Volevo cambiare argomento. A parte quella lì che m'era partita, quella canzone m'era partita, che tu sai pure di che cosa stiamo parlando. No, che stavo parlando di un'altra persona prima. Che un altro avvenimento che ci ha fatto pensare che la fine del mondo fosse vicina è il fatto che il Papa Pontifex Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, si è iscritto su Twitter, l'account ufficiale. Il pastore tedesco è su Twitter, ragazzi, ha scritto il 12 dicembre davanti a una folla di ammiratori, ha scritto il primo tweet, che: cari amici, è con gioia che mi unisco a voi via Twitter. Grazie per la vostra cenerosa risposta, vi benedico tutte di cuore. Vi benedico, ya, wunderbar. Ha scritto questo, sì. E poi, naturalmente, non potevano che esserci le cascate di persone che facevano domande al Papa. Esatto, anche perché non so se fare una domanda al Papa è nato così, oppure l'hanno fatta proprio quelli del Vaticano. Credo sia nato così. Fai una domanda al Papa, si chiama, era un hashtag su Twitter, fai una domanda al Papa, ci sono tantissime domande spettacolari, tra cui ci sono, cioè addirittura anche oggi fanno le domande al Papa, sì, no? Sì, sì. E infatti ci sono 18 nuovi tweet, io questa pagina l'ho aperto un minuto fa e ci sono 18 nuovi tweet. Comunque vi leggiamo le più curiose. Fai una domanda al Papa, Sora Cesira scrive, c'è l'accento. Fai una domanda al Papa, per curiosità, l'8x1000 donato da un gay non lo accettate, vero? Vergogna sul Papa. Poi c'è un'altra persona che scrive, essendo Caino e Abele entrambi maschi ed essendo la loro madre Eva l'unica donna, la specie umana avviene da un incesto? Sì, quello sì, sì. E poi quello senza dubbio sì. C'è scritto, ma poi Pontifex, se muore un papa e se ne fa un altro, l'account Twitter rimane sempre lo stesso? Questo è bellissimo. È probabilmente vero. Poi c'era quella là. E poi Dio ha twittato al papa: secondo te devo continuare a benedirla l'America? Anche Dio su Twitter si rivolge al Papa. Invece la cosa bella è che il Papa, ovviamente questo qui è l'account ufficiale, ma c'era un account... Ah, Valentina se ne va, quindi Valentina, buona serata, grazie per la compagnia, spero che ti sia divertito con Mazinga e che ci ritroverai quando faremo di nuovo il programma, probabilmente venerdì prossimo. Grazie mille, una buona serata, un applauso a Valentina che esce di scena. Ciao Valentina! Rimaniamo qui con gli altri mille ascoltatori. Scrivono. Ci scrivono. Che cos'è questa cosa? Da dove ci sei andato? Aspetta, fammi si è aperto come home page. Come si chiama questo sito? Fammi vedere il sali titolo. Sali un po' nella pagina. Ci fanno notare. Non si sa perché. A Rosario RussianBride.com, ovvero SposeRusse.com, è come home page del sito dell'associazione. Chissà chi. Si aprono le pagine quando Perché sì, ogni volta che navigo si aprono delle pagine. Questo qui è questa pagina a Rosario RussianBride.com. Esatto. Significa che tu hai cercato di trovare moglie in Russia, Rosa. No, ormai lo sappiamo. Quindi se c'è qualche russa che ci ascolta, qualcuna che non russa ma sia russa, ovvero tipo Romania o a salire, sapete che abbiamo un rosario qua disponibile. Comunque, tornando al discorso di prima che ho dimenticato. Ah, il Papa prima aveva un account fasullo, non so se tu te lo ricordi, si chiamava Er Papa. Si chiamava Er Papa, parlava in romanaccio. Una volta io mi ricordo bellissimo, c'era scritto, aveva twittato: a regà, l'Angelus di stasera è rinviato, di sto pomeriggio è rinviato perché gioca a magica. Partita la magica. Quindi il Papa rinviava l'Angelus perché giocava a magica. Quindi, certo, come fai a farlo? Il tizio che ha creato questo probabilmente l'avranno cancellato, perché si chiamava tipo Benetto XVI. Credo che l'avranno cancellato. Quindi il Papa, bellissimo. Il Papa che seguiva a magica, grande Er Papa. Poi di che cosa stavo parlando? Ah, un altro argomento, cambiando totalmente discorso, ma forse è meglio che ne parliamo successivamente, ovvero mandiamo una canzone, perché è già da troppo che parliamo in generale. Infatti, aspetta, abbiamo due nuovi ascoltatori. Sì, salutali. Ah, aspetta, Oriana deve ancora dirmi i nomi. Abbiamo due nuovi ascoltatori, un zambucese e un milanese. Asamoga, ma che il dici? Primo è Antonino e Simone. Secondo lo diciamo dopo la canzone. Lo diciamo dopo la canzone, diciamo, che è una canzone a caso tra queste qua. Sì. Vediamo quelle canzoni a caso. Tutti saranno sulle spine per questa cosa, sicuramente. Che la canzone è la canzone è il Nokia Tune, famosissima. Mando questa qui, che è sempre una canzone che piace a tutti per sempre. E piacerà per sempre. E questa la dedichiamo a Cetti. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places. guitar George. He knows all the chords. Man, it's strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Ascoltatori si muniscano gli ascoltatori di un foglio di carta per un esperimento allucinante. Ciao Davide! È di una penna, naturalmente. Un foglio di carta è una penna. Dedicato per il 90% ai saluti. A proposito di questo, volevo salutare Francesca Palma. Un bacione, Franci! Ciao, Franci! Un bacio. Un bacio. Complimenti per averci ascoltato. Probabilmente non mi avete ascoltato, ma ho interrotto l'assolo più spettacolare dell'universo sul Terra Swing. Cetti mi dice: io non dispongo di carta e penna. Ho detto questa cosa. Ma fammi il piacere. Prendetevi un pezzo di carta. Prendetevi carta e penna e scrivetevi le seguenti parole. Fatto? Avete fatto già? Ragazzi, prendete un foglio di carta e una penna. Si è sentito. E quando ci sarà appunto questo gioco, scrivete queste parole, mi fatemi sapere, non lo so, qualcuno mi dica sì, fatto, prendete un foglio di carta e una penna, perché è una cosa davvero scioccante. Dovete scrivere per farvi vedere che cosa vuol dire essere condizionati, che cosa vuol dire i messaggi, cosa vuol dire essere condizionati, e i messaggi subliminali probabilmente sono una cacata pazzesca. Quindi prendete carta e penna e... come la corazzata Potionkin. La corazzata Potionkin. Leggermente differente. Dario, raccontaci le tue, mentre gli ascoltatori si muniscono. Una cacata pazzesca. Non lo so, praticamente è la storia di una nave. Dopodiché mi sono a metà del primo tempo proprio l'ho lasciato andare, ho detto non ce la faccio. Perché ha detto una cacata pazzesca. Ma potete chiedere a Marta Artale, che l'ha visto. Ah, quindi Marta Artale avrà visto la corazzata Kotionkin o Potionkin, non mi ricordo. Kotionkin probabilmente. Quella sì, lì, sì. Insomma, quella nave. Va. Quindi la corazzata Kotionkin. Quindi se voi vi siete muniti. Se voi vi siete muniti di penna, carta e penna, scrivete le seguenti parole su questo foglio, ovvero scrivete Gotta make a move to a town that's right for me, ovvero c'è Gotta... chi ha scritto, scrivete di nuovo, dillo piano, fai lo spelling, faccio lo spelling in italiano, lo dico in italiano, scrivete queste parole Gotta. Gotta come spazio, come grotta però senza no la come R. Gotta, che è una malattia credo, poi io make grotta senza la R. Gotta make che sarebbe make a move, a move, a spazio, a move, move a move to a town che sapete che è t o w n town. Town, that's right for me, da tots. Con l'H, right. Ho sputato, sì. Pure Amy per dire tazz, l'ho risputato. Capite, sgatarra quando parla. Quindi gotta make a move to a town that's right for me. Benissimo. Gotta make a move to a town that's right for me. That's okay. Right for me. Quindi avete scritto? Avete questo pezzo, questa cosa scritta. Nessuno mi conferma che l'ha scritta. No, nessuno. Quindi guarda, c'era addirittura una persona che non dico il nome perché non lo dico, insomma. Mi stufa. Che poi esiste con una F. Che schifo, ma che cosa dici? Che schifo cosa? Passami di cosa genere. Questa persona mi dice che schifo perché è scatarro. Vergognati persona. Vedi di scrivere questa cosa. Gotta make a move, there are towns the right for me. Quindi, e sentite questo pezzo di canzone, leggendo questo testo, e vedrete che le prime parole sono proprio queste. No, non è questa. La canzone è questa. Silenzio. Sentitela. Senti, ascolta. Gotta make a move to a town that's right for me. Quindi, avete capito? Ci siamo, fino a qui ci siamo. Gotta make a move to a town that's right for me. Adesso prendete un pezzo di carta qualsiasi, lo farò pure io. Qua. Dai, Cetti, fallo. Io lo scrivo. Date dai. Un pezzo dai, di lo sto scrivendo pure io. E scrivete questa seguente cosa. Mi lascio prendere, dai. Scrivete, caro amico mio, caro amico mio, culattone. Aspettami. Caro amico mio, culattone, aspettami. Lo ripeto un'altra volta. Caro amico mio, culattone, aspettami. Quindi avete scritto gotta make a move della town. Si sta sbellicando. E poi scrivete questo. Caro amico mio, culattone, aspettami. Adesso vi rimetto la stessa canzone. E però guardate questo testo e cercate di capire le parole. E poi mi direte che effettivamente, guardate, accade qualcosa di allucinante. Quindi caro amico mio, culattone, aspettami. Rimettila, quindi caro amico mio, culattone, aspettami. Ve la facciamo risentire. Che sarebbe gotta make a move to a town that's right for me. Partiamo da questa parte. Quindi, cioè, lo scrivo qui. Gotta make a move to a town that's right for me. That's right. Mio fratello sta facendo mente locale per fare capire agli ospiti studio che effettivamente è così. Adesso, quindi, riguardiamo di nuovo, riproviamo. Quindi mettete avanti gotta make a move to a town that's right for me. Ecco qua. Yeah. Ora, cioè, rifacciamolo. Ci siete, rifacciamolo, però con davanti l'altra, quella in italiano, caro amico mio, culattone. E vi accorgerete che dice la stessa identica, esatto, cosa. Perché è brutto. Visto che è la seconda prova in diretta. Giusto? Del cervello, esatto, non è altro che uno scherzo del cervello, come tu stesso hai detto, è vero. Il cervello nostro vuole vedere solamente quello che gli facciamo vedere. Se io vi scrivo davanti un pezzo di carta, caro amico mio culattone aspettami, tu interpreti il suono come quello lì, perché tu sai che sono i sottotitoli, in realtà sono quelli, infatti. Però in realtà questa canzone dice gonna make a move to a town that's right for me, ovvero, visto che la canzone si chiama Funky Town, ovvero il paese del funky, quindi lei si deve muovere verso una città che è giusta per lei, va bene. Però non dice caro amico mio culattone aspettami, anche se una leggenda metropolitana vuole appunto che questa canzone sia qualche cosa di subliminale per farti diventare gay. Noi non lo so se voi diventerete gay, ma ve la mandiamo e ve la dovete ascoltare, brutti cattivi. Però pensando sempre al caro amico mio culattone aspettami. Esatto, ve la sentite tutta adesso. A dopo culattoni. Take me to Funky Town. torn. Che in inglese vuol dire, caro amico mio, culattone, aspetta. Torna. Perché... Non lo voglio risentire, un secondo. Perché... No, basta! L'ultima. Basta! L'ultima volta. La canto pure, vicino. Amico mio, culattone, aspettami. Va bene così. Quindi abbiamo scoperto come il cervello ci può fare brutti scherzi. Il cervello ci fa brutti scherzi. Quindi altri brutti scherzi del cervello sono quelli che il cervello di alcuni traduttori adattatori italiani quindi per colpa di brutti scherzi del cervello, alcuni traduttori italiani hanno tradotto alcuni titoli di film allucinanti. Vabbè, questo ci insegna che ogni cosa è come noi la interpretiamo, esatto. Non come è effettivamente. Vediamo quello che vogliamo vedere. Esatto, guardate questi titoli, vi leggiamo, oh, rimortacci. Quindi vi leggiamo adesso dei titoli in ragazzi, inglese di alcuni film. No, non c'è bisogno della... Questo? No, non c'è bisogno. No, bella niente. Allora ti metto questo. Dai, leggi. Questo è sempre fantastico. Ragazzi, chi non ha mai visto quei famosi film in cui in inglese tipo si chiamano in un modo Eternal Sunshine of a Spotless Mind? No, lo conoscete questo film, ragazzi? The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Che in italiano è stato tradotto Se mi lasci ti cancello. Che è una tristezza allucinante. Noi abbiamo trovato una pagina Facebook che si chiama Titoli di film stranieri adattati e tradotti coi piedi. E Gabriele Tipo Time After Time, in italiano è stato chiamato L'uomo venuto dall'impossibile. Then she found me, quando tutto cambia. Quindi che era lei, esatto. Lei mi trovò. Ma questo è fantastico. Quando lei mi trovò. 16 Blocks, un film con Bruce Willis, solo due ore. Com'era il titolo in italiano? Solo due ore. In inglese voglio dire 16 Blocks. Quindi com'è possibile? What's your number? Che sarebbe qual è il tuo numero. In italiano l'hanno chiamato Sex List. Oddio. Sex List, ragazzi. Poi un altro film che si chiama Sex List, che si chiamava Deception in italiano, in inglese. Poi The Guards, quindi la guardia penso che si siano, l'hanno chiamato in italiano un poliziotto da Happy Hour. Poliziotto da Happy Hour. Mirrors, riflessi di paura. Cioè, era specchi, si chiamava così. Ma effettivamente, pensandoci, alcune volte queste scelte sono ponderate. No, praticamente la Mirrors, dovresti chiamarlo Mirrors, specchi. Specchi. Non si addice a un film dell'horror. Ma assolutamente. Quindi no. Riflessi di paura ci sta. Dai, questa volta ve l'abboniamo questa qui. The Devil Rejects. La casa del diavolo. La casa del diavolo sarebbe il reietto del diavolo. Se non ci metto in mezzo alla casa non sono contento. Gli occhi dell'assassino. Si chiamava l'Oios de Julia. Gli occhi di Giulia e gli occhi dell'assassino. Con gli occhi dell'assassino. Questo non l'ho capito. No, ce ne sono alcuni allucinanti. Però in generale quello di cui volevamo introdurvi era il fatto, diciamo che molte persone, tra l'altro molti ascoltatori, immagino persone che conosco, amano seguire serie TV, film in americano, in lingua originale, perché è un peccato però quando voi caricate le pagine YouTube non vi si caricano. No, si carica, tranquillo. Dico, quando tu vai a guardarti un film tipo Misfits in inglese, senti una voce del personaggio principale delle prime stagioni, che era Nathan, che è una voce che faceva super giù così. Non è questa. Ecco. Questa qui. E in italiano questa voce in italiano è stato doppiato da questo tizio. Dopo quel temporale. Non questo. Nessuno di voi si è sentito, ecco, un po' strano. Questo qui. Sì, io ho sentito uno stranissimo formicolio all'ano. Com'è possibile che una voce di un uomo che parla when again a wow venga tradotta? Sì, sentite uno stranissimo formicolio all'ano. Non so se avete mai sentito la voce di Will Smith che fa. Sì, Will Smith. Cerchiamo Will Smith perché Will Smith così, no? Ecco, che guarda, ma lo ritrovo proprio su Facebook, ha scritto: I think the world is supposed to end today. I guess the new after After Earth website is right on time. Parla così. E poi in italiano ha una voce tipo: ehi, ciao. Ciao, sono Will ciao, Smith. Sono quello che fa incredibile. I film con Muccino. Sì, sono quello che fa. Quindi non stupitevi del fatto che, oltre a essere condizionati in questa maniera, molti, diciamo, adattatori e traduttori abbiano tradotto pezzi classici o cose allucinanti, essendo tipo, non lo so, condizionati dal loro cervello demente, traducendo tipo, non lo so, testi allucinanti con testi idioti in italiano, oppure doppiando persone che hanno delle vocione così, oddio, con, non lo so, per quello scromativo. E per questo ultimamente la gente preferisce soprattutto guardarsi le serie TV in inglese, anche se Gabriele purtroppo non me lo vuole, non mi segue in questa crociata, no, diciamo. No, io non ho falere questo. A Gabriele non piace questa crociata. Noi abbiamo cominciato per esempio, non lo so, Misfits stesso, una serie TV meravigliosa in italiano. Poi l'ultima stagione ancora in italiano non è uscita, l'abbiamo seguita in inglese e abbiamo visto le allucinanti, diciamo, differenze tra la versione americana e insomma. Ma poi non so, per esempio, chi di voi guarda i... Una generazione. Vieni a parlare nel microfono, non si sente. Papa Dai Racing. Come si chiama? Quella dei vampiri. Vampire Diaries. Sì, c'è una generazione. Questa generazione di serie TV e cose sono davvero scioccanti. Vampire Diaries, che tra l'altro derivano tutti dal discorso che c'è stato Twilight. Twilight, sì. E quindi sono tutti appassionati di questi vampiri che sono buoni. Perché vampiri buoni, io mi ricordo Dracula, no? Quando dici vampiro, mi ricordo Dracula che esce dalla bara tutto putrefatto. Tu mi hai fatto? Tutte le figlie. È buono, esatto, cose mai viste. I vampiri che salvano le persone, i vampiri di solito si succano le persone, esatto, li uccidono, li massacrano. Purtroppo sapessi che purtroppo i tempi sono cambiati. Noi parliamo piano piano, tipo andando avanti nel tempo, stiamo cominciando a parlare come i vecchi che criticavamo tempo fa, no? Dice che tutti vecchi non ci capiscono, eccetera. Allora invece è da qualche anno che cominciamo a dire: ai miei tempi era diverso, ai miei tempi non era così, ai miei tempi stiamo diventando dei vecchi, non lo so, non so neanche per quello scuro motivo stiamo parlando di questo. Prima di salutarvi, magari mandiamo una canzone, poi ritorniamo in studio e parliamo un altro pochettino e poi successivamente vi salutiamo perché l'ora è tarda, insomma. Quindi vi mandiamo questa bella canzone che già forse avevo proposto in passato, sono i My Morning Jacket, della canzone One Big Vincenzo, Holiday. Domenico, figa, si è rotto le palle. Domenico si è rotto le palle, quindi va benissimo, dobbiamo chiudere. Grazie la radio. Grazie Rosario, Domenico dice che si è rotto le palle, quindi ce ne dobbiamo andare. No, era un suggerimento di Rosario, ragazzi, Domenico è uno serio, quindi... Vi lascio i Morning Jacket. E con questa bella melodia vi salutiamo, soprattutto dandovi una notizia bella per noi juventini. La Juventus sta vincendo al 92esimo. Al 92esimo Matri ha segnato, quindi siamo felici di questo. E anche le Morning Jacket ci salutano. Due gol di Matri, ha imparato a giocare. Ha imparato a giocare proprio. Comunque volete fare un saluto prima che ce ne andiamo? Ah. Ciao a tutti, è stato un piacere essere qui stasera. Ci sentiamo alla prossima. Dario, vuoi salutare qualcuno in particolare? Ciao a tutti, volevo salutare mia mamma, mio papà, che sicuramente non mi stanno ascoltando. E perché da te non arriva la che ho nella zona di Tirana. Ciao. Tu hai parenti a Tirana e non ne sapevo niente. Ah, buono a sapersi, insomma. Come si chiamava quel paese? Castrovilla. Cisternino. Cisternino. Questo programma è stato Castrovilla. È stato offerto da Cisternino, il buon Facebook Giadua. Già o Ada, ma che cacchio, mi sono disconnesso, non lo vedo, compa. Mimi, salutiamo il grande Domenico Russo. Salutiamo Domenico, che non so cosa mi voleva dire. Grande Domenico. Grande Domenico, che è sempre qui, ragazzi, lui c'è sempre. Occhio Audacity, Audacity, quindi salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando al podcast. Che c'è sempre, siamo sempre stati così. E stacchiamo, siamo sempre stati così. Stacchiamo il podcast, quindi buonanotte al podcast. Buonanotte. Staccalo. Al podcast. Questa è stata una puntata fatta il 21/12/2012. Sì. Quindi se state ascoltando questo podcast che sta finendo, non è in diretta. Esatto, Suga, esatto. No, sto scherzando. No, Suga no, vabbè. No, ascoltate un po' succhino, diciamo. E bevete il vino Cisternino, quello buono. Ok, Cisternella. Quindi, buonanotte podcast. Chiudi il podcast, cazzo. Stai ascoltando Radio Sisma, la scossa culturale.